Come anticipato, ci colleghiamo adesso con Giulia Fasano, segretaria generale e docente del Comitato Baleari della Società Dante Alighieri. Ciao Giulia. Ciao Alex. Allora, Giulia, intanto spiegaci cos'è la Società Dante Alighieri, che molti non la conoscono. Dunque, si tratta di un'istituzione che fu fondata da un gruppo di intellettuali, tra cui Giosuè Carducci, nel lontano 1889, con la finalità anzitutto di tutelare e diffondere la cultura e la lingua italiane nel mondo, favorire il mantenimento dei legami degli italiani all'estero con la propria terra e chiaramente anche di facilitare l'avvicinamento dei cittadini stranieri alla nostra cultura. C'è quindi, diciamo, una volontà di fondo di fare comunità, di conoscersi al di là delle differenze, al di là delle identità linguistiche di ciascuno. Molto molto importante, secondo me. E in particolare, quali sono le attività del Comitato della Dante Alighieri nelle Isole Baleari? Dunque, in collaborazione con gli istituti secondari della città di Palma e con Caixa Forum, che Alex permettimi di cogliere l'occasione, voglio ringraziare dal momento che mettono a disposizione i loro spazi per le nostre attività, ecco, con loro organizziamo conferenze. Il programma di quest'anno prevedeva la partecipazione di grandi nomi della cultura italiana e non solo, da Armando Savignano a Nicoletta Maraschio, prima donna a guidare l'Accademia della Crusca, a Telmo Pievani, famoso evoluzionista, a Pietro Greco, volto noto della divulgazione scientifica televisiva. Stavamo organizzando anche veladas artísticas, come diciamo noi in Spagna, di concerti di musica classica e poesia con il noto musicologo e direttore d'orchestra Felipe Aguirre. Dico stavamo perché chiaramente a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo dovuto rimandare tutti i nostri appuntamenti a data da destinare. Ed è un peccato perché mi sembra un programma davvero ambizioso, speriamo di recuperarlo presto. Che cosa accade invece con i corsi di lingua? Anche in quel caso abbiamo dovuto reinventarci. Continuiamo a tenere i nostri corsi senza modificare giorni né orari, ma adesso chiaramente il nostro appuntamento linguistico è online. In tempi come questi, lo stiamo vedendo anche in Italia, l'insegnamento attraverso l'uso di tecnologie diventa uno spazio per assicurare la didattica nonostante le distanze. E non solo, è anche un modo per regalare ai nostri studenti e, a dir la verità, anche a noi docenti un momento di normalità nonostante tutto. Per esempio, abbiamo consigliato agli studenti della Dante e di tutti i comitati esteri con cui siamo in costante comunicazione l'utilizzo di una piattaforma digitale alla quale ho il piacere di lavorare con professionisti e ricercatori di prestigiose realtà accademiche come la Normale di Pisa, l'Università di Oxford e quella di Cambridge. E di che cosa si tratta? Sì, la piattaforma si chiama POC Scuola Digitale, P-O-K. In realtà è pensata per le scuole superiori di secondo grado italiane e per questo ha il vantaggio di seguire perfettamente i programmi ministeriali delle varie discipline. Ma stiamo vedendo che funziona perfettamente anche per i nostri studenti di italiano come lingua straniera, perché possono guardare comodamente da casa piacevoli video lezioni di qualunque materia che possa interessare loro, insomma dalla chimica alla letteratura italiana alla biologia, per fare solo alcuni esempi. E voglio dire che ci si registra gratuitamente ed è un modo diverso per scoprire il mondo in italiano e naturalmente continuare ad esercitarsi con la lingua e, perché no, allontanarsi anche solo per un istante dalla terribile congiuntura storica di cui siamo testimoni. Eh già, un ultimo dato prima di lasciarci: il 25 di marzo è stato istituito come Giorno Mondiale di Dante, il cosiddetto Dante Day. Cosa avevate o avete ancora in programma? Armando Savignano, che ho nominato prima, ordinario di filosofia morale e bioetica dell'Università di Trieste, avrebbe tenuto a Palma una conferenza dal titolo Maria Zambrano, Dante e Specchio Umano, dove poetiche ed esperienze storico-biografiche lontane ma non del tutto diverse sarebbero state messe a confronto e sviscerate da uno dei maggiori esperti del pensiero spagnolo e iberoamericano. Ad ogni modo, mi preme dire che l'appuntamento è solo rinviato. Per il momento aderiamo con piacere al flash mob promosso dalla Società Dante Alighieri di Roma, il cui hashtag è Sto a casa con Dante. Si tratta di una campagna mondiale che prevede per il 25 di marzo alle ore 18 la lettura dei versi più famosi del canto quinto dell'inferno, quello di Paolo e Francesca per intenderci. Molto interessante, cercheremo di vedere come possiamo anche noi della radio partecipare, non sarebbe mica male, una bella idea. Senti, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. grazie a voi Alex. Ecco, ricordiamo che si parla di Giulia Fasano, segretaria generale e docente del Comitato Baleari della Società Dante Alighieri. Ciao Giulia. Grazie, ciao Alex, buona giornata.